Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Mirko Locatelli, regista del film Isabelle, in uscita in sala 29 novembre. Mirko, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Come lo presenteresti il tuo film? Ora ti posso dire da dove siamo partiti per scriverlo. Sì. È un film su un momento preciso nella vita di Isabella. Ognuno di noi nella vita ha un momento in cui accade qualcosa di improvviso, di inaspettato. Uno di quei momenti in cui ti rendi conto che non puoi tornare indietro, devi solo guardare verso il futuro. E ecco, Isabella si trova proprio in quel momento della vita, uno di quei momenti, ed è un personaggio che può solo correre in una direzione, solo in avanti, deve soltanto decidere come. Ecco, sono proprio le scelte che prenderà che determineranno il suo futuro. Da dove è partito tutto? È partito da desiderio di raccontare una storia senza stampo. Stiamo leggendo una lettera sul Corriere della Sera. Abbiamo io e Giuditta, scrivo sempre con lei, Giuditta Tarantelli, che è anche mia moglie. Abbiamo letto di una storia di un uomo molto arrabbiato perché aveva perso la figlia in un incidente per cui il pirata della strada era fuggito. Ecco, noi ci siamo detti, proviamo a ribaltare un po' il normale modo di vedere le cose del lettore medio, no? E del fruitore medio, dello spettatore che cerca sempre un colpevole, no? E, sì. e non si ferma, come dire, di fronte alla fragilità umana, perché chiaramente quando capita un fatto molto molto molto grave, noi cerchiamo di trovare subito una soluzione facile. Ecco, noi abbiamo voluto ribaltare un po' il punto di vista, e solitamente quando c'è un criminale noi gli diamo un colore, gli diamo una provenienza. Ecco, qui il colore e la provenienza sono assolutamente affini a chi solitamente giudica. Una donna normale, con una vita normale, che diventa il carnefice. Com'è lavorare a quattro mani? Che modalità avete? Ci svegliamo presto la mattina. Questo è molto importante. Perché la mattina è un periodo della giornata in cui riesci ad avere la mente sgombra, e quindi tutte le mattine noi scriviamo, ma questo avviene, succede per 6, 7, 8 mesi quando prepariamo un film. Scriviamo ogni mattina, e ogni mattina a volte separatamente, a volte ci confrontiamo, però la chiave è scrivere comunque, anche se credi di non avere niente da scrivere, perché scrivendo ti forzi e ti obblighi a riflettere su alcuni passaggi che magari un giorno hai voglia di affrontare, altri giorni no, e poi ci confrontiamo. Il confronto è il momento migliore perché ci scambiamo i nostri appunti, ognuno legge quelli dell'altro, e poi parliamo fino a che non ritorniamo a scrivere separatamente. Funziona un po' così. Senti, poi per la costruzione del film c'è un volto familiare per certo cinema francese che arriva anche in Italia e che apprezziamo. La bravissima Ariana Scarini. Sì. Io, quando scriviamo con Giuditta, noi vogliamo immaginare già il corpo che metterà in scena, quelle che fino a quel momento sono solo parole sulla carta. Quindi dalla carta dobbiamo passare alla carne il più presto possibile. Abbiamo bisogno di vederlo, quel corpo, vedere quel viso, vedere quelle espressioni. E Ramaskar Rider fa parte, come dire, di quel cinema che a noi piace, che noi percorriamo, e quindi abbiamo chiesto a lei di interpretare Isabelle, sì. Lei, ma non solo a lei, anche a Robert Sostenen, figlio d'arte, figlio del grande Sostenen, ricorderete il maestro nella Jean de Poche negli anni in tasca di Truffaut, ecco, il maestro era suo padre, ha lavorato con lui e lei, creando una famiglia, quindi madre e figlio molto attaccati, che devono riuscire prima di tutto a risolvere il loro legame, il loro rapporto, e poi attore non professionista, un giovane triestino, Samuele Vestio, che ha lavorato in stretto contatto con lei, quindi una specie di mix esplosivo che mi ha divertito molto. Insomma, lavorare con attori professionisti affiancati da non professionisti, insomma, ti permette di scoprire sempre qualcosa, ecco. Il tutto per una coproduzione italo-francese. Sì, è una coproduzione italo-francese. Ho coprodotto il film con Agat Films, Robert Guédiguian, che tra l'altro, insomma, apprezzo moltissimo proprio per i film che fa con Ariane. È stato forte, insomma, lavorare con loro, sono bravi i francesi. Che uscita sarà, Mirko? Quante sale? Ma sarà un'uscita che spero la seconda settimana, cioè di approdare alla terza settimana con almeno una cinquantina di sale. Partiamo da 22 sale, però insomma quelle giuste, ecco. Nelle città o nei centri cittadini dove le persone sono abituate, come dire, ad approcciarsi a un cinema, al cinema di qualità, insomma, al cinema che ci piace, ecco, un cinema che andiamo a vedere anche noi. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Isabelle giovedì 29 novembre. Un saluto e un ringraziamento al regista Mirko Locatelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, in bocca al lupo a voi. Bonifacio Angius, regista del film Ovunque proteggimi, in uscita in sala giovedì 29 novembre. Bonifacio, ben trovato. Grazie, grazie. È sempre un piacere avere a che fare con voi di Radio Onda Rossa. Un onore. Allora, caro, come lo presenteresti questo film? Allora, questo film è un film dallo spirito volutamente e inconsapevolmente, per quanto riguarda i personaggi, dallo spirito anarchico, ma è uno spirito anarchico obbligato, perché questi i personaggi del mio film si scontrano con un mondo che non gli appartiene e che vorrebbero o prendere a pugni in faccia o scapparne. È un film che parla di un incontro tra due solitudini, Alessandro e Francesca. Alessandro, un musicista di musica folk sassarese, che poi sarebbe musica sudamericana mischiata musica napoletana o flamenca andalusa, con testi tradotti in lingua sassarese. Sì. È una donna, Francesca, dai modi spontanei di una bambina, un personaggio che sembra uscito quasi da una canzone di Fabrizio De André, a cui è stato portato via un figlio perché è stata messa in dubbio con tanta energia la sua capacità genitoriale. Okay. È un film che parla d'amore, ma non d'amore di coppia alla Via col Vento, è un film che parla d'amore su tanti livelli, quindi amore come ancora di salvezza, amore materno, amore tra figlio e madre,

siete voi, c'è la stampa che aiuterà a tenere il pubblico aggiornato sulle varie uscite. A Roma siamo 29, al Cinema Farnese alle 21.30, una presentazione speciale con i maestri Massimo Gaudioso e Daniele Cipri. Perfetto. Ricordiamo l'uscita in sala del film Ovunque Proteggimi, da giovedì 29 novembre al cinema. Un saluto e un ringraziamento al regista Bonifacio Angius. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie. Ciao. Il lupo, grazie tante, a presto. Con Cristina Nisticò del Cine Club de Tour per parlare della sesta edizione dell'On the Road Film Festival, cinema di viaggio e di frontiera. Cristina, ben trovata. Ciao a tutti, ciao Federico, grazie mille per questo spazio. Grazie. Raccontiamo cos'è l'On the Road. Allora, l'On the Road è alla sua sesta edizione. Quest'anno, con delle novità, abbiamo selezionato meno film degli altri anni, cercando proprio di raggiungere il cuore dello specchio del cinema di viaggio e di strada. E siamo molto fieri anche perché quest'anno, a differenza di tutti gli altri anni, è praticamente autoprodotto. E negli altri anni abbiamo avuto dei sostegni istituzionali e quest'anno abbiamo comunque deciso di farlo lo stesso con le nostre forze e quelle di tutte le persone che si sostengono. Sia film che documentari? Sì, sono film e documentari. Infatti, ecco, sempre a differenza di altre edizioni, quest'anno abbiamo anche delle fiction e siamo molto felici perché il mondo della fiction regala anche dei piccoli gioielli e soprattutto sono tutti film indipendenti, questo ci tenevo anche a dire. Sono indipendenti, spesso prime opere o seconde, ma sempre indipendenti, questo è quello a cui teniamo molto, quindi non grandi budget. Quanti titoli nel complesso? Allora, abbiamo 6 lungometraggi in concorso e 9 cortometraggi. Okay. Entrambi, diciamo, le due sezioni si... quest'anno tutti i film arrivati avevano questo senso di oscurità, questo senso di vagare nel buio, e quindi abbiamo capito che forse è questo che il cinema indipendente vuole raccontare un po' in tutto il mondo, perché poi il nostro è un festival internazionale e quindi arrivano lavori veramente da ogni parte del mondo, ma quasi tutti avevano questa velatura scura o nostalgica, e quindi abbiamo voluto proprio esaltare questo. E anche un altro filone è dedicato all'Asia, quindi sia i 6 lungometraggi che i 9 cortometraggi hanno queste due strade, hanno preso queste due strade e anche qualche piccola scintilla di follia e di resistenza e resilienza all'interno di questo filone più buio, ecco, dove stiamo camminando tutti in questo periodo storico, direi. Che orari saranno? Come sarà organizzato il festival? Allora, guarda, dal 29 e al 2 dicembre abbiamo il concorso, mentre invece poi gli eventi speciali sono dal 7 al 15 dicembre, veramente speciali, e di weekend. Quindi solamente per il concorso siamo aperti anche giovedì 29 e fino a domenica 2 dicembre. Gli orari sono serali, perché ovviamente anche durante la settimana preferiamo dare spazio anche a tutte le persone che lavorano di poter venire. Allora, iniziamo giovedì 29 alle ore 21 con Blue Kids, un film italiano di Andrea Tagliaferri, e venerdì si prosegue fino a domenica, diciamo sempre orario 20-21, e comunque tutti gli orari li potete vedere su www.cinedetour.it oppure su Facebook Cinedetour o On the Road Film Festival, perché sono vari, ecco, tipo venerdì e sabato abbiamo più proiezioni, quindi iniziamo un po' prima, e poi la serata finale il 2 dicembre con i cortometraggi, e poi la premiazione inizieremo verso le 18, e sono tutti film, come sempre al Detour, in lingua originale con i sottotitoli in italiano o Kids, Blue Kids in italiano, ma con i sottotitoli in inglese per permettere anche ai nostri amici stranieri di poterlo vedere. È prevista la presenza di ospiti e o comunque di momenti di incontro e di dibattito? Certo, certo, quest'anno abbiamo molti ospiti, abbiamo sempre Andrea Tagliaferri di Blue Kids, e poi avremo Christoph Carabate di Ultra Vocal, che è un thriller noir che faremo venerdì, che a noi è molto piaciuto, con delle sempre queste oscurità e surreali, quindi vi consiglio di venire a vederlo perché è proprio da festival, ecco, sai, così proprio da festival. E poi Our Wildest Dreams di Maria Elisa Self, come ospite abbiamo Happy New Year di Desiree Marianini, che verrà a presentarlo, e lo sabato quindi abbiamo Desiree di Happy New Year e Parsifal Riparato di Nimble Fingers, quindi abbiamo tutti e due i registi. E per gli shortcuts anche qui abbiamo molti dei registi sia stranieri che italiani, e quindi sì, si cercherà di stare anche un po' insieme, di socializzare e di poter conoscere così meglio i registi e incontrarli, creare questi momenti di incontro tra il pubblico e gli autori e le autrici, molte le autrici. Ci tengo moltissimo. bene. Molte autrici donne e protagoniste donne forti, e quelle che vogliamo far vedere. Ok, bene, ricordiamo la sesta edizione dell'On the Road Film Festival, cinema di viaggio e di frontiera a Roma al Cine Club de Tour dal 29 novembre al 2 dicembre. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Cristina Annistico. Cristina, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille Federico, grazie a tutti, vi aspettiamo, sostenete il cinema indipendente, grazie mille. Con Sandro Triulzi dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per parlare della rassegna cinematografica e giornata di studi dal titolo La conquista dell'impero e le leggi razziali a Roma, la Casa del Cinema, dal 4 al 7 dicembre. Sandro, ben trovato. Grazie, buonasera. Ci presenti l'iniziativa? Sì, dunque l'iniziativa ha a che fare naturalmente con l'ottantesimo anniversario delle leggi razziali e con un tentativo di presentare a un pubblico romano della Casa del Cinema una rassegna di film e una giornata di dibattito su questi due grandi temi. Da un lato la conquista di quello che è stato l'unico impero dell'Italia diciamo fascista del periodo, che era solo in parte un impero coloniale perché la conquista dell'Etiopia è stata una conquista di occupazione militare, e le leggi razziali. Leggi razziali che in colonia arrivano l'anno precedente, nel 1937, proibendo ogni relazione di indole coniugale tra cittadini e sudditi. Era l'inizio di quello che sarebbe stato l'apartheid, cioè la separazione razziale, la più netta tra i coloni e i colonizzatori. Questa rassegna e questa giornata di studi, come saranno poi articolate? Dunque, il 4 sera alla Casa del Cinema verrà mostrato Il Conscio Italiano e ci sarà una presentazione delle varie giornate. E poi il 6 e il 7 ci saranno delle rassegne di film e il giorno 7 ci sarà la giornata di studi. Scusate, il 5 non è il 4, il 6 e il 7. La rassegna di film è una rassegna che non solo vuol fare vedere documentari dell'epoca, che naturalmente erano documentari di propaganda, documentari che avevano lo scopo di convincere gli italiani che l'impero era un qualcosa da cui l'Italia guadagnava molto, non soltanto come prestigio ma anche come risorse, e che la guerra tutto sommato era stata una guerra assolutamente vittoriosa per contrastarla invece con la prima guerra d'Africa, che era finita con la battaglia di Adua e con la sconfitta di Adua nel 1897. Ecco, in parte c'è un recupero di questi vecchi documentari per sottoporli a un occhio e un giudizio critico oggi, ma in parte questi documentari saranno affiancati da una serie di altri documentari, come appunto Inconscio Italiano, ma anche Oltremare di Loredana Bianconi, ed altri, c'è un film di Scola per esempio, che presenteranno invece degli sguardi diversi sul periodo, delle interpretazioni alternative e un modo di leggere questa pagina su cui è calato un silenzio assurdo e purtroppo molto, molto spiacevole per tutti quelli che fanno, come dire, mestiere di storici o anche di persone del cinema, perché questa è essenzialmente una rassegna cinematografica, che credono che il cinema possa avere dei grandi valori da condividere e che quindi rivedere insieme i prodotti degli anni 36, 37, 38 fino al 40 da un lato e vedere altri film più recenti naturalmente che sono stati girati negli ultimi 10 o 15 anni possa rimettere in vita il dibattito su che cosa è stato l'impero coloniale, che cosa è stato essere, diciamo, avere l'illusione di avere un nuovo senso di protagonismo per gli italiani dell'epoca e che cosa è stato poi la delusione della sconfitta, perché l'impero è durato soltanto 5 anni e dal 5 maggio del 36 al 5 maggio del 1941. E molti italiani che si sono sentiti protagonisti del mondo in qualche modo, essendo imperiali nel loro stare in Etiopia, in Eritrea o in Somalia, e poi sono stati un periodo più lungo, a volte 6, a volte 7, 8 anni di prigionia in cui hanno dovuto riflettere amaramente sulle sconfitte e le delusioni del periodo. E la giornata di studi come si svolgerà? Dunque, la giornata di studi si svolgerà in una mattina, in un pomeriggio, con alcune proiezioni di filmati, diciamo, simbolici a metà mattinata. E sono stati invitati a parlare alcuni storici del cinema e alcuni storici contemporanei o africanisti, i quali hanno indagato su vari aspetti dell'impero, dal ruolo delle donne allo scarso impegno nel campo dell'educazione. Gli africani non potevano andare oltre la quarta elementare nell'impero e la legislazione e quindi vari aspetti dello stare, essere cittadini nell'impero, sia come coloni che come colonizzatori, che hanno marcato poi l'Italia degli anni che seguiranno. Se oggi non c'è ancora stato un vero e proprio resa dei conti con questo passato coloniale, non ci possiamo stupire, a mio avviso, se c'è oggi una recrudescenza di pratiche, discorsi, linguaggi, epiteti, pregiudizi che hanno a che vedere con l'incapacità del nostro paese di fare i conti con questo passato. E rispetto alla rassegna, quanti sono i titoli nel complesso? Il numero esatto non lo so dire, saranno un 7-8 titoli complessivi. Ci sono, la rassegna è nel pomeriggio e prima serata e quindi ci saranno un paio di film, alcuni anche più brevi nel pomeriggio e un film di durata media, diciamo 60-90 minuti alla sera, intorno alle 20-21. Allora ricordiamo la rassegna cinematografica e la giornata di studi

abbiamo aspettato qualche mese perché ci siamo concentrati sulla tournée mondiale e adesso è giusto, anche perché appunto è un film coprodotto a livello popolare, è giusto che questo film possa arrivare nelle case di tutti quanti. Per cui da lunedì 3 dicembre sarà disponibile on demand sia in versione file che in versione DVD che in versione UHD box il film dopo musical, appunto, che in questi mesi abbiamo portato in giro per il mondo. Sempre sul fronte produttivo vi segnalo altre due cose interessanti. La prima è che al Torino Film Festival è stato presentato Cowboy Macdonski, un film di Fabio Ferrero molto molto interessante, che se vogliamo può anche essere visto come l'altra faccia dei temi che abbiamo trattato anche in The Harvest, nel senso che di nuovo siamo, anche se con un linguaggio cinematografico completamente diverso perché è un film biografico, siamo di nuovo nel mondo della produzione agricola, in questo caso nel mondo della produzione di vino in Piemonte. E la storia è la storia del protagonista di questa storia, perché appunto lo dicevo, un film biografico, è la storia di questa persona che è arrivata in Italia dalla Macedonia negli anni Ottanta e il suo percorso di vita di questi ultimi decenni, anche con delle situazioni contraddittorie, perché è una persona che si è anche trovata spesso a essere lui stesso in qualche maniera qualcosa di simile a un caporale, e in qualche maniera è un film molto particolare anche perché il regista ha seguito questa persona per quasi 7 anni. Quindi è un film molto intenso e siamo molto felici che l'anteprima nazionale sia proprio il Torino Film Festival, che è un festival che comunque su questo tipo di storie ci mette molta attenzione. La terza novità sui termini produttivi è che come siamo capaci di Factory, quindi la nostra sessione produttiva, stiamo lanciando, e stasera faremo un'iniziativa Max 61 qui a Bologna, un nuovo progetto di documentario girato in Palestina. Il titolo provvisorio è Youth of Sumut, proprio perché racconta la storia di questo collettivo di giovani, giovani tra i 15 e i 20 anni, quindi alcuni sono studenti medi e altri sono studenti dell'università, che hanno costruito in qualche maniera un proprio percorso politico anche sulla scorta di quello che era l'esperienza di Duani, il villaggio palestinese dove 9 anni fa giravamo il nostro turno stand. Il film ovviamente sta muovendo i primi passi adesso, nel senso che abbiamo girato tutte le riprese a settembre, e stasera, anche grazie alla presenza di una delle ragazze di questo collettivo che è eccezionalmente in Italia, faremo questo primissimo momento di socializzazione pubblica del progetto. Come sapete bene, i nostri progetti cercano sempre di avere un percorso popolare condiviso, quindi questo sarà il primo di una serie di passi che si affiancheranno anche ovviamente a una campagna di crowdfunding sul film per l'anno prossimo. Arrivando invece sulla sezione del catalogo di OpenDDB, abbiamo in questo mese delle novità molto interessanti. Una su tutte che spicca ovviamente è la terza proposta che arriva in catalogo dalla Galassia Rezza Mastrella. Come avevamo accennato già nei discorsi con Antonio e Flavio, abbiamo deciso finalmente di fare in modo che ci sia una teca digitale che racchiuda le opere di Antonio e di Flavia, e ogni mese proponeremo una nuova proposta all'interno di quello che è tutta la loro gigantesca produzione audiovisuale. Questo mese vi proporremo Troppolitani, Teatro Valle Occupato. Come sapete bene, Troppolitani è di fatto un format che Antonio e Flavia hanno usato anche spesso televisione su Rai 3, spesso a orari improbabili di notte, perché funziona sempre così, ma è soprattutto un formato che si è prestato anche a degli spin-off negli anni successivi, e Valle Occupato appunto è uno di questi, e come potete intuire racconta di un'incursione di Antonio e di Flavia al Valle Occupato quando appunto era nel pieno delle sue attività, quindi negli anni scorsi fondamentalmente. Poi il film uscì nel 2016 ufficialmente. Sempre rispetto alle nuove proposte, vi segnaliamo che stiamo continuando a pubblicare i bellissimi libri del collettivo degli elementi Kairos. Il mese scorso abbiamo pubblicato Storie resistenti dal Chiapas e a questo mese abbiamo un'altra proposta che ci sarà una volta, si chiama, per poter trovare la sezione editoriale della nostra piattaforma, ed è di nuovo ambientato anche questo in Chiapas. La cosa molto bella di questo collettivo è che riescono sempre a produrre libri non solo molto belli dal punto di vista anche dell'intersezione tra testuale, disegno e quant'altro, ma sono libri che spesso si prestano a una lettura sia per adulti che per ragazzi, che era un po' la cosa che da mesi noi ci tenevamo ad iniziare ad avere anche sulla piattaforma. E sempre dal punto di vista della produzione editoriale, perché in questi mesi abbiamo raccolto molti autori e autrici anche dalla galassia delle editrici di edizioni indipendenti, vi segnaliamo anche Sulle tracce della grande madre di Giulietta Pellegrini. Giulietta Pellegrini è una ricercatrice di Bologna che ha fatto anche dei documentari, fu l'autrice di Bandite, non so se vi ricordate, che fu un documentario molto interessante che uscì ormai 5-6 anni fa. Adesso è uscita con questo nuovo libro molto bello, ed è molto bello anche perché anche qui c'è un livello di sperimentazione del linguaggio molto interessante, nel senso che è un innesto fondamentalmente tra parti testuali, parti fotografiche del loro viaggio che hanno condotto appunto sulla ricerca di questo libro, e disegni sopra le parti fotografiche con la penna di Marina Girardi, che è una disegnatrice molto famosa a Bologna e che sta producendo delle cose molto interessanti. Quindi siamo contenti di aver accolto anche questa esperienza finalmente sulla nostra piattaforma. Bene. È tutto, Paco? E per questo mese sì, però ci sentiremo sicuramente presto per prossime e succulente novità. Un abbraccio e alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Con Nadia Pizzuti, una delle curatrici della rassegna Il colonialismo italiano raccontato dalle donne, una seconda tranche con 3 appuntamenti alla Casa Internazionale delle Donne il 15, 22 e 29 novembre. Nadia, ben trovata. Ciao, buongiorno. Raccontaci. Allora, questa è dunque la seconda edizione di questa rassegna che appunto si intitola Il colonialismo italiano raccontato dalle donne, che non sono solo film diretti da donne, ma anche film in cui le donne hanno un ruolo importante, no, come protagoniste. E questa volta, sempre nell'ottica, no, di favorire il ritorno del rimosso, no, sul colonialismo italiano, che appunto non è entrato davvero nella memoria collettiva, perché c'è sempre questa amnesia che viene denunciata tra l'altro da uno dei film che presentiamo. Abbiamo messo il focus questa volta un po' di più sui corti, sui film dei giovani afrodiscendenti, di un gruppo, no, in particolare che si chiama Collettivo M, e poi anche un'altra novità che presenteremo all'interno di questi 3 appuntamenti dei film coloniali. E quindi magari posso, se vogliono entrare in particolari, qui il giovedì prossimo, quindi il 15 novembre alle 18:30, ci sarà la prima puntata che abbiamo intitolato Amnesia, Afro-italiani e Afro-italiani, appunto, in cui ci sarà un film un po' sperimentale di 30 minuti che proprio vuol denunciare la politica di amnesia, no, che c'è in Italia sul passato coloniale, attraverso tra l'altro l'analisi dei libri di testo delle scuole, no, che insomma abbastanza nuova come approccio. Sì. E in seguito, dopo questo primo corto di Alessandra Serini, che è una videoartista ricercatrice che vive a Londra, e tra l'altro questo è un film che è stato proiettato anche sulla Sera dei Popoli, no, nel documentario a Firenze, e abbiamo selezionato 4 corti del Collettivo M. Allora, cos'è il Collettivo M? È un gruppo di registi e altri professionisti dell'audiovisivo che sono quasi tutti di origine africana e che appunto lottano per una rappresentazione